English Bit di Giulia Crivelli. Spin. Tropical storm Irma spins in the Atlantic. Could soon be hurricane. La tempesta tropicale Irma volteggia sull'Atlantico e potrebbe presto trasformarsi in uragano. Così titolava un suo servizio uno dei tanti canali meteo delle TV americane. Non si parlava però di Harvey, l'uragano che si è abbattuto su Texas e Louisiana, bensì di Irma. La parola che ci interessa è spin, voce del verbo irregolare to spin, spun, spun. In primis significa girare, in particolare su se stessi. The plane was spinning out of control. L'aereo aveva perso il controllo e si stava avvitando su se stesso. The ballet dancers spun around and around. I ballerini classici volteggiarono e volteggiarono. Un altro significato è filare o lavorare con i ferri. She sat by the window spinning. Sedeva vicino alla finestra e lavorava a maglia. Se parliamo di ragni o bachi da seta, to spin vuol dire tessere. A spider spinning a web, un ragno che tesse la sua ragnatela. E notiamo che web significa sia rete, come in World Wide Web, sia appunto ragnatela. Poi c'è spin-off, che può essere verbo o sostantivo, come ben sappiamo anche in italiano. The Transportation Department will be spun off into a separate company. La divisione trasporti verrà convertita in un'azienda separata. Spin è inoltre l'effetto che si può dare a una palla da tennis o da baseball. Oppure ancora, the TV comedy series is a spin-off from the original movie. La serie TV è uno spin-off del film originale. Spinning, poi, è la disciplina da palestra che si è diffusa in tempi recenti anche in Italia. Interessante infine il sostantivo spin doctor, che viene definito a person whose job is to present information to the public about a politician or an organization in the way that seems most positive, quindi una persona il cui incarico è di presentare le informazioni su un politico o su un'organizzazione nel miglior modo possibile, da qui l'idea di spin, cioè far volteggiare le informazioni in modo che abbiano solo un aspetto positivo. E poi c'è give the washing machine a short spin, scegli un lavaggio breve per la lavatrice. Concludiamo con i versi di una canzone del gruppo britannico Dead or Alive, intitolata proprio You spin me round, you spin me right round baby, right round like a record baby. Mi fai girare come un disco, proprio come un disco baby. Il CD naturalmente non era l'oggetto della canzone, era invece l'LP, perché la canzone è del 1984.